Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Ben arrivati, 16:33, Luca Tremolada, Sandro Mangiaterra. La notizia del giorno l'avete sentita anche nei giornali radio: Google è stata condannata. Noi avevamo dedicato una settimana fa una puntata sul tema, un po' prevedendo che sarebbe successo un casino in rete. Un casino è successo in rete, nel senso che si parla di attentato alla libertà di espressione. Google sono arrabbiatissimi, ma sentiamo subito nel servizio di che cosa stiamo parlando. Google condannata per violazione della privacy. L'accusa è di non aver impedito nel 2006 la pubblicazione su Google Video di un filmato che mostrava un minore, affetto da sindrome di Down, insultato e picchiato da 4 studenti nell'Istituto Tecnico Steiner di Torino. Assolti invece i 3 dirigenti dalle accuse di diffamazione. Google avrebbe dovuto ottenere o far ottenere dagli autori del video la liberatoria alla pubblicazione delle immagini. Si aspetta di leggere la motivazione della sentenza, ma in rete c'è già chi vede in questa decisione un attacco alla libertà di Internet. Allora, noi siamo in collegamento con l'avvocato Andrea Monti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, mi sembra di capire che il tema è la responsabilità non solo di Google, ma di tutti i social network. Sì, in realtà il tema è ancora più ampio. La sentenza, ovviamente, come avete detto nel servizio, bisogna aspettare di leggere le motivazioni. La sentenza è comunque estremamente preoccupante, soprattutto se la si legge in coordinato, disposto con il caso, le sentenze sul caso The Pirate Bay, la scandalosa estensione del concetto di sequestro fino a ricomprendere il filtraggio di massa della navigazione internet degli utenti. Cioè, lei dice che ci sono un po' di segnali che vanno in una brutta direzione. Ma più che segnali, oramai sono delle certezze, cioè si è rotto l'argine giuridico stabilito dalla direttiva sul commercio elettronico, che tutelava da un punto di vista giuridico appunto la network neutrality. Gli operatori di accesso e i fornitori di contenuti e di servizi, quindi non soltanto Google, YouTube, Facebook, Twitter e via discorrendo, nella misura in cui operano in Italia o sono raggiungibili dall'Italia, di fatto devono, per poter essere rispettosi dei principi espressi da queste sentenze, che vanno da tribunale di primo grado fino alla Corte di Cassazione, dovranno necessariamente violare la network neutrality da un punto di vista tecnologico, provocare asimmetrie nel mercato delle telecomunicazioni, consentendo solamente agli operatori più grossi e più forti, che quindi possono permettersi. Ecco, ma per intenderci, Monti, se io adesso, non so, scatto una foto a Sandro Mangiaterra e la pubblico e non chiedo il permesso a Sandra Mangiaterra sul fronte della privacy, perché ricordiamo che il tema della sentenza è la privacy, non è quindi la diffamazione. L'immagine è tutelata già dal diritto d'autore, per cui le fotografie di persone non possono essere riutilizzate, a meno di non farlo per fini giornalistici e nell'ambito della professione giornalistica, non possono essere riutilizzate liberamente senza il consenso della persona ritratta, quindi non è nemmeno un discorso di tutela dei dati personali. Per quanto riguarda la questione specifica, non è nemmeno un caso di privacy intesa come diritto all'oblio, è una questione, tra virgolette, più banale dell'acquisizione del preventivo consenso, se vogliamo della liberatoria, come si dice in gergo, al riutilizzo del video. Ecco, ma avvocato, se io inserisco un bottoncino, cioè dentro a YouTube, in cui ogni utente diventa responsabile di quello, del contenuto che manda, che pubblica, non ho aggirato e risolto la questione? No, il problema è un altro. La Procura di Milano e probabilmente anche il giudice ha ritenuto che sussista l'obbligo di, in questo caso non YouTube, ma di Google direttamente, o meglio di determinate persone di Google, perché non è stata condannata l'azienda ma 4 dirigenti, dicevo che sussista l'obbligo di verificare preventivamente quello che fanno gli utenti, e quindi la responsabilità per violazione della legge sui dati personali sarebbe nel non avere controllato, nel non avere impedito. Mi sembra una tesi giuridica, se fosse veramente questa, molto azzardata da sostenere, perché porterebbe alla chiusura sistematica di qualsiasi tipo di servizio di user generated content. Ecco Monti, io direi che ci riserviamo di risentirci appena escono le motivazioni della sentenza. Per oggi, insomma, fermiamoci a questo punto e voltiamo pagina. Grazie Andrea Monti. Grazie, buona giornata. Cambiamo pagina e andiamo dove? Parliamo anche qui di sicurezza, insomma. Ma sì, qui, infatti. In senso non di sicurezza dei dati, della rete, di censure, ma di sicurezza dei cittadini. Sì, noi abbiamo qui Paolo Pepori, che è l'amministratore delegato della GEP di Arzano in provincia di Napoli, che ci ha raggiunto fino a qui in studio, che lui si occupa di RFID ed è lui il responsabile di quella che potrebbe essere la blindatura del tifoso cattivo. Possiamo metterla così? Sì, in qualche modo sì, sicuramente. Beh, buongiorno a tutti. Diciamo che il nostro mercato si rivolge fondamentalmente ai prodotti che utilizzano la tecnologia radiofrequenza, che ormai comincia a essere conosciuta abbastanza. Le etichette, le carte dei trasporti pubblici, anche a Milano, a Napoli, a Roma vengono utilizzate, quindi molti hanno, cominciamo già ad avere dimestichezza a questi strani pezzi di plastica che, passandoli vicini senza toccare niente, scambiano dati con una qualche macchinetta. Ovviamente questo è poi, diciamo, ha avuto una sua evoluzione molto forte, dobbiamo dirlo, col passaporto elettronico. Il passaporto elettronico, lasciatemi citare questa esperienza che è estremamente importante, è stato il primo documento che è nato, ovviamente noi lo presentammo nel luglio del 2001, mi vanto di questo, però non vorrei neanche dire che poi chissà che cosa hai combinato per far crescere questo mercato, no? Prima dell'11 settembre noi avevamo presentato questo documento proprio per dire al mondo: bene, vi interessate, vi preoccupate che il passaporto sia un documento vero, ma non vi preoccupate che appartenga alla persona giusta. Beh certo, perché se io prendo quello di Mangiaterra e ci metto sopra la mia foto, cambio la foto, arrivederci, grazie. Tutti quanti sono belli contenti perché vedono tutte le loro colorati, i loro cordini, eccetera. Però la validità, la controvalidità, i visti di entrata, eccetera, tutti eccetera. Contenti, peccato, però peccato è un'altra persona, esatto, un'altra persona. Quindi questo, diciamo, con l'11 settembre c'è stata una forte pressione. Dobbiamo dire che l'Italia è stata anche la prima nazione al mondo a presentare un progetto concreto e a presentarlo anche formalmente alla Comunità Europea nel dicembre 2003, e quindi diciamo siamo stati i primi noi italiani a muoverci dentro questo tipo di evoluzione, ovviamente. Quindi Pepori, allora vediamo se ho capito, cioè si tratta di un documento cartaceo o plastificato, quindi una tesserina piuttosto che appunto di un pezzo di carta, su cui è applicata un'antenna, giusto? Un'antenna, un chip con un'antennina. Esattamente, esattamente. Manda delle informazioni a un lettore e il lettore dice: ok, queste informazioni sono corrette. Esattamente, chiaramente. Spieghiamo, siccome abbiamo realizzato proprio una scheda per spiegare un po' tutto questo, mandiamola. Altrimenti okay, dici perfetto. Tutto te, è inutile. Prego. La famosa tessera del tifoso ha suscitato mille polemiche e scatenato l'ira degli ultras. Roberto Maroni, ministro dell'Interno, non intende comunque tornare indietro e vuole renderla obbligatoria a partire dal prossimo campionato. La GEP è pronta. Infatti sta sperimentando la tessera del tifoso per molte squadre di serie A e B e di recente ha acquisito la commessa per introdurla nella Primera División argentina. Attraverso un chip applicato sulla tessera, l'identità del tifoso e una serie di altri dati, come ora d'entrata, il suo posto, eccetera, saranno certi. Il documento, inoltre, non potrà essere falsificato. Niente più biglietti falsi e bagarini, e sarà personale. Impossibili i passaggi di mano, altrimenti non si entra. Insomma, un passo in avanti decisivo per la sicurezza negli stadi. La prova generale è avvenuta a Roma, il 27 maggio scorso, in occasione della finale di Champions League tra Barcellona e Manchester United. Tutti gli spettatori erano muniti di una tesserina di plastica elettronica che tra l'altro permetteva i passaggi sui trasporti pubblici e l'accesso ai musei romani. Cioè, la tessera del tifoso, adesso al di là del passaporto elettronico e della carta d'identità elettronica, su cui peraltro ci sono stati da parte del governo tanti annunci, adesso partiamo, poi si rinvia, ma Però insomma, questa della tessera del tifoso, esatto, è un, secondo Maroni dovrebbe entrare in vigore, doveva addirittura entrare in vigore questo campionato, è stata slittata al prossimo, però molte squadre si stanno attrezzando, assolutamente, mi pare, sì, assolutamente, tra le polemiche degli ultras, ovviamente, però diciamo così, ho citato... Certo, lei è cosciente che noi vogliamo capire come cercare di craccarla, cioè l'obiettivo della trasmissione è quello di cercare di svelare poi, il trucco, ovviamente. Siccome l'azienda è ad Arzano, no? Che è il cuore, insomma, una città difficile, insomma, dal punto di vista della criminalità e forse anche della tifoseria napoletana, quindi certo, scommetto che molti ascoltatori della zona di Napoli saranno interessati a vedere come si può falsificare. Sì, anche perché tra l'altro non lo facciamo perché siamo ultra, tra l'altro facciamo semplicemente per spirito hacker, che ci piace smontare le cose, come infatti, funzionano e... infatti, allora, proprio infatti sono partito dal passaporto solo per dire che il passaporto ha permesso e ha realizzato di fatto uno standard di fatto, e questo è stato estremamente importante, che è stato un po' come la SIM nel mondo del GSM, che si è realizzato uno standard di fatto, e grazie a questo poi alla fine le applicazioni al contorno sono quelle che hanno avuto più successo, grazie al fatto che un'applicazione come il passaporto ha creato uno standard di fatto. Allora, effettivamente mi fa piacere che sia stata citata questa della Champions League, perché di fatto alla fine che poi siano dati biometrici della persona come nel passaporto, che siano soldi, che siano dati facciali della persona per entrare allo stadio, alla fine si tratta sempre di trattare, di gestire con estrema sicurezza e in un modo certo i dati della persona. Allora, diciamo due cose importanti. La prima, nell'ambito della privacy, questo è molto importante perché abbiamo fatto delle lunghissime battaglie a riguardo, i dati biometrici della persona, quindi i dati sensibili, la faccia, la data di nascita, il gruppo sanguigno e eventualmente le impronte digitali, stanno all'interno della carta, quindi all'interno del prodotto che uno porta con sé. Quando uno va a identificarsi, si identifica dicendo: sì, io sono proprio la persona che ha, diciamo, il diritto di portare quel pezzo di plastica. Quel pezzo di plastica riconosce che sono io, e il tornello semplicemente tra virgolette identifica che quella persona che passa è proprio quella. Ma il tornello come fa a identificare? Se mi faccio prestare la tessera dal buon mangiatera, allora, mi risponde subito dopo, però la domanda la faccio chiaro già adesso, sì. Cioè, se io prendo la tessera di mangiatera, passo e insomma mangiatera anche lui è un po' ingrigito, siamo tutti e due barbuti, insomma, abbiamo dei tratti comuni, cioè la macchina dice barbuto, ingrigito. Nova Lab 24. Rieccoci in trasmissione 16:46, stiamo cercando di craccare la tessera del tifoso, no, non è vero, ma in parte è vero. Allora, diciamo così che esistono diversi step. Allora, lo step, come abbiamo già realizzato in Argentina, è che sulla tessera del tifoso c'è già la foto e l'impronta digitale, perché in Argentina, diciamo, hanno bypassato tutta una serie di ostacoli di tipo psicologico di varia natura, per cui sulla testa argentina, per esempio, c'è l'impronta digitale, c'è la foto, per cui quando io passo mi viene riconosciuta la foto e mi viene riconosciuta l'impronta digitale, e dunque c'è un sicuro riconoscimento biometrico, e non è possibile passare se non c'è questo. In Italia, diciamo che la cosa, che poi alla fine finirà esattamente nella stessa maniera, a diversi step per evitare che si creino, diciamo, problemi di tipo più psicologico. Sappiamo, in Italia abbiamo una serie di difficoltà a mettere l'impronta digitale, eccetera. Quindi, diciamo, il primo passaggio è quello di garantirci che la carta e che il biglietto sia un biglietto vero e autentico. Ma poi chi è l'autorità che mi passi il termine, che scheda poi le persone? Cioè, ecco, perché okay. L'altro problema è quello più fastidioso, perché le tecnologie sono quasi sempre neutre, invece sono poi le persone che... Assolutamente. Cioè, però, vorrei mai dare i miei dati o le impronte, cioè perché devo fare? Allora, esattamente questo è il problema. Allora, i dati e le impronte stanno sulla tessera. Il problema è che c'è la questura, diciamo, che identifica le persone che hanno il cosiddetto DASPO, cioè non possono passare perché hanno diffidate, creato, no? Dall'entrare allo stadio. E quindi quelle persone lì non passano. Dunque, chi è che decide che una persona passa o non passa è la questura, perché c'è un DASPO piuttosto che no. Stiamo parlando dell'Italia. Il mio problema è che la tecnologia deve essere certa che quando passa Sandro Mangiaterra sia è lui Sandro Mangiaterra, e che possa entrare perché non ci abbia e tremolare, passa quando tremola, e non si possa fare diversamente. Quindi questo è l'elemento fondante. Quindi chiaramente in questo momento c'è la foto. Perché qual è il punto della foto? Perché la foto è un elemento biometrico di riconoscimento, ma come si dice non è di tipo sensibile, cioè io la foto la posso prendere e cambiare, certo. Sì, però la foto della persona io la posso catturare con una macchina fotografica senza alcun problema, mentre invece l'impronta digitale è un problema molto più delicato, perché certo, farsi tra virgolette una banca dati di impronte digitali potrebbe chiaramente essere un elemento molto critico. Però si può fare in teoria una cosa del genere. Si può fare e si farà, però l'impunto importante è che l'impronta digitale io ce l'ho solo sulla mia carta, quindi io non faccio una banca dati laterale. No, questa strada qui del replicare la banca digitale non va bene. Quindi l'unica cosa è sostituire il chip, volendo proprio. Allora, sostituire il chip, ma per sostituire il chip bisognerebbe, è un, il sistema della criptatura del chip e dell'identificazione del chip è fatto con una cosiddetta chiave pubblica, detta anche PKI, un algoritmo asimmetrico analogo agli stessi algoritmi che vengono utilizzati per la bomba atomica o roba, cioè, del insomma, genere. Quindi è una roba difficilissima, assolutamente, ci vuole un premio Nobel assolutamente per la matematica. Noi francamente abbiamo avuto attacchi veramente molto pesanti, molto forti durante la Champions League, anche perché un biglietto costava molto caro, venduto dai bagherini aveva dei prezzi di alcune migliaia di euro, e chiaramente abbiamo avuto l'attacco di persone che hanno cercato di fare dei biglietti clonati. Però essendo un biglietto a microprocessore, quindi non a memoria, quindi il nostro, e qui vorrei un attimino fare un flash tecnologico anche se di punta, la cosa importante è che non si può fare un chip RFID come il tag per le borsette, ma bisogna fare un chip a memoria dove i dati vengono catturati all'interno della carta e dove ci sia un algoritmo attivo che sia in grado di identificare. Però, a proposito di però insomma, chi si è presentato al 27 di maggio scorso col biglietto falso è non stato è preso entrato per le orecchie dalla polizia e tirato non via. Ce l'ha fatta. Mentre non possiamo aiutare Sergio, che ci ha scritto, Sergio taxista milanese che saluto, che ci ha detto che in questo momento tutta Piazza Duomo, a proposito di Champions, è bloccata dai tifosi. In questo caso l'RFD non serve a nulla. No, temo proprio che di radiofrequenza non c'entra proprio un granché. Noi abbiamo qui anche Pierangelo Soldavini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che ha in mano il numero che uscirà domani nelle edicole di Nova 24 insieme al Sole 24 Ore, il titolo Promesse da Grant. Che cosa vuol dire? In più uno che mangia terra dice, che cosa vuol dire? Che cos'è il Grant? Diciamo che non è un argomento appassionante come lo stadio, il calcio, però promette come... Tremolada piace il rugby, Mangiaterra, le squadre di calcio. No, beh, però lo stadio, io sono di basket. Lo stadio in generale, parliamo di carta del tifoso, non parlavo certo di calcio, ma di stadio in generale. Parliamo di ricerca, di ERC, di European Research Council, che è il Consiglio Europeo della Ricerca, che ha stanziato, che ogni anno stanzia dei fondi per i giovani ricercatori. La novità dei progetti che quest'anno noi seguiamo periodicamente, le vicende dell'ERC, dei fondi, quest'anno la notizia positiva è che i giovani italiani hanno ottenuto parecchi finanziamenti quindi è una buona cosa. C'è un altro aspetto che è negativo, perché il processo dell'ERC è a doppia concorrenza, diciamo così, è una concorrenza tra progetti, poi i finanziamenti vengono affidati al ricercatore che può scegliere quale laboratorio utilizzare per la ricerca. Quindi l'aspetto negativo qual è? L'aspetto negativo è che l'Italia difficilmente riesce a mantenere i propri ricercatori. Cioè mettiamo abbiamo in campo fatto un dei... passo in avanti col fatto che i giovani ricercatori italiani presentano dei progetti positivi, divertenti, assolutamente visionari, ma poi li sviluppano all'estero e poi spesso vanno a svilupparli all'estero, che spesso è sempre una frase da giornalista, per dire quasi sempre, quando uno dice spesso. Adesso noi facciamo per esempio due casi di giovani italiani, che uno è rientrato addirittura dall'America per lavorare con un microscopio ad alta definizione, ad altissima definizione, in tempo reale. Al San Raffaele, esatto. E un altro invece che in tutt'altro campo lavora sui veicoli senza pilota, per cui sta partendo da Parma, a luglio partirà da Parma per un viaggio di 10.000 km per arrivare a Shanghai, all'Expo di Shanghai, e raccogliere dati per, con un veicolo senza pilota. Tra l'altro possiamo ricordarlo, Francesco Stellacci, che avevamo parlato nel primissimo numero di Nova, è riuscito, nanotecnologo, ragazzo giornalista, nato a Bitonto, una storia formidabile, che era nato negli Stati Uniti, professore associato in nanotecnologia, quest'anno è tornato a Milano, è riuscito a, insomma, è un cervello che è tornato indietro, ha trovato un progetto all'altezza, certo. Possiamo dire che avevamo visto giusto? Possiamo dire che avevamo visto giusto, sì, ma perché no? Tanto per ogni dire, tanto ci possiamo lodare e imbrodare. Ogni tanto ci possiamo lodare e imbrodare. Io direi che, no, poi altre cose, un'altra cosa al volo su Nova, abbiamo tempo? No, sì, no. Un'altra cosa, sì. Ce la puoi raccontare tu, perché hai scritto, è vero. Abbiamo The Shop Must Go Up, andiamo ad analizzare tutti i negozi di applicazioni dal BlackBerry alla Apple, cerchiamo di capire che cavolo c'è dietro di così interessante dietro a queste applicazioni, e poi abbiamo la parola ai programmatori. Posso dirne uno che è stupido ma è interessante, quello che fischi e sai, il telefono ti risponde, così trovi il telefonino. Sì, che tu quando non lo trovi fischietti e il telefonino si accende, non è male. Brevissimamente, parte la tessera del tifoso l'anno prossimo, sì o no? Ma io penso proprio di sì, ormai era, quasi era quello che volevamo sentire. Io ringrazio Piepoli, ringrazio i nostri ospiti, noi ci sentiamo domani alle 16.30.